in primo piano. Buona giornata, buona domenica da Mauro Meazza, benvenuti alla nostra rassegna stampa. Vediamo come i giornali in edicola questa mattina presentano i fatti principali che avete sentito anche riassunti nel giornale radio condotto poco fa dalla collega Anna Migliorati. Naturalmente non ci sono le notizie sul maltempo che ha colpito la Costa Azzurra, perché giunte nella notte. Invece dominano, per così dire, tre temi. Il primo è l'approvazione dell'articolo 2, del sospirato articolo 2, verrebbe da dire, per quanto riguarda la riforma del Senato, che qua e là occhieggia, qualche volta si prende il titolo principale, qualche volta no, su tutti i quotidiani. Poi il coming out, come si dice, insomma la dichiarazione pubblica del prelato Ciaramsa, che ha dichiarato appunto: sono gay, amo un uomo, voglio che la Chiesa cambi la sua posizione. Anche questa in qualche caso conquista il titolo principale, in qualche altro caso no. E poi il raid, il funesto raid dell'aviazione americana che ha colpito un ospedale in Afghanistan. Allora, data questa mappa, per così dire, complessiva, con qualche eccezione naturalmente che ascolteremo via via in questa rassegna stampa, vi segnalo proprio la puntualità dei vari titoli. Ad esempio sulla Stampa si sceglie di dare il maggiore rilievo all'approvazione di questo articolo 2. Boschi, fantapolitica, un'alleanza con Verdini, approvato con 160 voti l'articolo 2, cuore del provvedimento sul nuovo Senato. Forse qui merita fare veramente qualche secondo di precisazione. L'articolo 2 è quello su cui si va a decidere la possibilità di eleggere o di non eleggere i senatori del nuovo Senato, che appunto conterrà solo 100 senatori. Si è discusso a lungo: devono essere eletti direttamente dai cittadini oppure no? Si è trovato un accordo che prevede sostanzialmente che i cittadini, noi indicheremo nelle elezioni regionali quali sono i consiglieri che devono essere poi mandati a rappresentarci al Senato. Quindi insomma un compromesso che cerca di tenere insieme sia la necessità di elezione diretta sia la necessità di avere un procedimento più snello. Perché allora il ministro Boschi parla di questa alleanza con Verdini? Perché importante per il passaggio di questo tratto della nuova legge sul Senato è appunto l'alleanza con Verdini, che non fa parte della maggioranza, ma che l'ha sostenuta in questo frangente. Il ministro appunto dichiara alla Stampa, l'intervista la trovate anche sul Secolo XIX, dichiara alla Stampa che comunque questa riforma non cambierà l'assetto del governo, cioè non ci sarà una estensione della maggioranza di governo. Detto questo, è precisato che ancora la vicenda della nuova formazione, la nuova forma del Senato non è conclusa, si pensa di concludere entro il 13 ottobre, perché appunto l'articolo 2 è stato votato, era lo scoglio maggiore probabilmente, ma non è finita, e lo ricorda anche il ministro Boschi in questa intervista alla Stampa. Dice: ci sono ancora 380.000 emendamenti con cui fare i conti, non si può dire, spiega il ministro nell'intervista a Carlo Bertini, che ora la strada sia tutta in discesa, il lavoro è ancora tanto. Dice: è possibile, viene chiesto a Maria Elena Boschi, un qualche accordo elettorale del Partito Democratico con Verdini quando si andrà alle urne? Accordo elettorale, ma l'Italicum prevede il premio alla lista, non alle coalizioni, quindi non sarà possibile per il Partito Democratico nessun accordo. E poi cosa succederà alla destra italiana nel 2018? Sinceramente non lo so. Questo è un riassunto anche di cosa contiene l'articolo 2. Lo trovate un po' su tutti i giornali. In questo caso per la Stampa la spiegazione del contenuto della nuova legge sul Senato lo trovate a pagina 5 con l'intervista al ministro Boschi. Vi dicevo che l'altra notizia importante, giudicata importante e meritevole di ampio spazio in prima pagina, è quella del raid in Afghanistan. La NATO sbaglia bersaglio, strage all'ospedale afghano è il titolo della Stampa ancora, che fa sormontare questo titolo da una grande fotografia. E invece per Repubblica, questo è il titolo principale: NATO, la strage dei medici, Afghanistan bombardato l'ospedale di Medicine Sans Frontières, anche bambini tra i 19 morti. Abbiamo lanciato l'allarme, hanno continuato a colpirci, sono le dichiarazioni. Kabul e gli USA replicano, c'erano dei terroristi. È stato precisato appunto anche da Medicine Sans Frontières che il sito, l'ospedale, era stato segnalato. Su Repubblica le altre due notizie sono appunto in seconda e terza posizione: il Vaticano via il teologo gay, bufera sul sinodo dei vescovi, e poi sì all'articolo 2, nasce il nuovo Senato, Verdini dice adesso Bersani non serve più. Sul Messaggero invece l'apertura, il titolo più importante, è proprio dedicato alla vicenda di questa dichiarazione pubblica di Monsignor Ciaramsa, prete gay, terremoto in Vaticano. Amo un uomo, il coming out di Monsignor Ciaramsa imbarazza la Santa Sede, padre Lombardi dice non insegnerà più, e il caso piomba sull'apertura del sinodo. Questa coincidenza in qualche modo della dichiarazione pubblica proprio a ridosso dell'apertura dei lavori del sinodo dedicato alla famiglia è quella su cui si concentrano anche diversi commentatori, nonché alcune dichiarazioni rilasciate da varie autorità vaticane. Il giornale in qualche modo con il suo titolo sceglie di segnalare proprio questa coincidenza, questa vicinanza di tempi, con un titolo già che è un commento: ciclone gay sul Papa, veleni in Vaticano, bomba del teologo della Santa Sede alla vigilia del sinodo, sono omosessuale a un compagno, subito rimosso dagli incarichi, l'ombra di un complotto contro Francesco della lobby homosex. Si torna a parlare appunto di questa presunta lobby omosessuale che costituirebbe un gruppo di potere importante in Vaticano. Se ne torna a parlare, devo dire, solo su alcune testate e meno su altre. Vediamo allora, per completare in qualche modo la panoramica dei principali titoli su questa vicenda di Monsignor Ciaramsa, come sceglie di segnalarla Avvenire, che come sapete è il quotidiano di ispirazione cattolica nonché della Conferenza Episcopale Italiana, quindi è importante capire qual è il trattamento riservato a questa notizia. Il titolo principale di Avvenire è per il sinodo, la luce della famiglia, 90.000 in piazza San Pietro, preghiera per l'assemblea che da domani si riunisce per 3 settimane a riflettere sulle sfide pastorali. E poi in centro della prima pagina una foto non grande ma visibile, annuncio di un prete di curia, ho un compagno, il Vaticano lasci. La foto, comunque, non vorrei ingenerare degli equivoci, non riguarda Monsignor Ciaramsa, questa è una foto che invece trovate su molti altri giornali, ma è una foto dei 90.000 ieri presenti in piazza San Pietro. E poi all'interno le dichiarazioni di Monsignor Ciaramsa, a questo punto coming out, sono omosessuale a un compagno, padre Lombardi che dice un'indebita pressione sul sinodo. Viene intervistato Monsignor Mauro Cozzoli, che è l'ordinario di teologia morale all'Università Lateranense di Roma, il quale dice che queste dichiarazioni sono rivendicazioni da paladino gay, dice non difettano certo di presunzione queste dichiarazioni, con cui contrappone un suo magistero al magistero della Chiesa, facendolo valere come la verità all'altezza dei tempi. Dichiara di volere con la sua storia scuotere la coscienza della Chiesa, sa bene di cavalcare l'onda mediatica paladina della liberalizzazione dell'amore ridotto a sentimento e orientamento soggettivo. Ci fermiamo per qualche istante, ascoltiamo anche le previsioni del tempo. Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Oscar, ce l'ha con te questa. Ma no, ce l'ha con no, te. No, ce l'ha con te. Ma non è vero, dai. Allora, ce l'ha con tutti e due. Ah, sì, perché c'è una grande novità. Dal lunedì al venerdì alle 8:15 su Radio 24 c'è Attenti a noi due. Che poi siamo noi due, Oscar noi Giannino due. E Alessandro Milan. Non perdetevelo su Radio 24 dalle 8:15 lunedì e venerdì. Attenti a noi due. in primo piano. Bentornati, ancora una buona domenica da Mauro Meazza, buona domenica naturalmente anche a Carmelo Lauricella che questa mattina ci assiste in regia. Vi segnalavo già nella prima parte di questa rassegna stampa come le notizie sostanzialmente in evidenza siano tre, riguardano l'una appunto le dichiarazioni pubbliche di Monsignor Ciaramsa, il Corriere della Sera, che è stato poi il quotidiano che ha pubblicato il giorno precedente l'intervista a Ciaramsa, titola con "Teologo gay, caso mondiale", e questo è un po' un titolo che ritorna un po' in molti quotidiani con grande evidenza. Poi c'è il bombardamento purtroppo della NATO da parte degli aerei USA un ospedale di Medicine Sans Frontières in Afghanistan, e poi l'approvazione dell'articolo 2 che era un passaggio chiave per la riforma del Senato. Il Corriere della Sera presenta appunto, oltre al titolo principale dedicato al teologo gay, anche per appunto ribadire il suo primato nell'aver portato alla luce per primo questo evento, anche queste altre notizie. Anzi, la strage nell'ospedale attaccato dagli aerei USA, dura accusa dell'ONU, è il titolo che sta più in alto nella prima pagina, anche se non è il più importante, sta più in alto nella prima pagina del Corriere della Sera di questa mattina. E poi ancora in prima pagina dal quotidiano di Via Solferino passa l'articolo chiave sul nuovo Senato, tiene l'accordo nel Partito Democratico. Il commento di Aldo Grasso, che abitualmente sta nella parte bassa della prima pagina del Corriere della Sera da domenica, è dedicato alla resistenza radiofonica della Padania. Come sapete, la notizia è che Radio Padania non chiuderà, così ha detto almeno Salvini, il leader leghista, ha assicurato che Radio Padania non chiuderà. Vediamo però, detto che queste sono le tre notizie principali e quindi trovano spazio su tutti i giornali con ampie trattazioni anche nelle pagine interne, nelle prime pagine interne, vediamo qualche titolo invece differente che possiamo trovare ad esempio sul Fatto Quotidiano. I politici che tagliano la sanità hanno tutti gli esami gratis. È una inchiesta del Fatto Quotidiano che viene posizionata già nella prima pagina con grande evidenza. Per la loro cassa mutua versano ciascuno 550 euro al mese, rimborsi per tutto: ricoveri, fisioterapia, occhiali, psicoterapia, cure termali. E di sforbiciare dalla propria parte loro non ci pensano per niente. All'interno poi appunto il dossier di Tommaso Rodano, che dice: tagliano la sanità pubblica ma si godono quella privata, l'assistenza integrativa dei parlamentari vale 17 milioni di euro di rimborsi all'anno. I costi sono, nel 2014 sono stati restituiti 11 milioni per la Camera, 6 milioni e 100 mila euro per il Senato. Il tariffario è completo, vengono anche riportate delle cifre per i vari rimborsi. Come sapete, questa è la forma di sanità che anche i cittadini possono sottoscrivere, ad esempio con contratti privati o anche con mutue di secondo livello, di categoria, come ad esempio accade per i dipendenti delle banche o anche per gli stessi giornalisti che hanno una loro cassa mutua a cui versano il tariffario. Appunto, queste categorie che hanno queste casse, queste sanità integrative, potranno confrontare, vedendo le cifre, sul Fatto se la loro cassa è più o meno generosa di quella dei parlamentari. Questo è il titolo principale del Fatto Quotidiano, che poi naturalmente riporta anche le vicende che vi ho detto: il teologo "amo un uomo" cacciato in pieno sinodo, e poi la NATO bombarda un ospedale, 19 morti. Nella prima pagina del Fatto Quotidiano. Invece veniamo alla prima pagina del Sole 24 Ore. Il titolo principale non è su queste tre notizie, ma invece su un importante passaggio per quanto riguarda diciamo 19 milioni di persone, cioè tanti quanti sono i modelli 730 che sono stati presentati quest'anno. La guida agli ultimi sconti fiscali, perché il 26 di questo mese, il 26 ottobre, scade il termine per presentare una denuncia integrativa se per caso ci si è dimenticati di indicare qualche sconto a cui si aveva diritto. Quindi il titolo principale, e poi la terza pagina del nostro quotidiano questa mattina sono proprio intitolati a questo aspetto, come poter recuperare qualche sconto fiscale a cui si aveva diritto ma che non è stato inserito nel modello 730. Perché può essere accaduto questo? Sappiamo che questo è stato l'anno della dichiarazione cosiddetta precompilata, dico cosiddetta perché in realtà molto andava poi completato dal contribuente assistito oppure no dai centri di assistenza fiscale o dai professionisti. Bene, proprio per questo motivo, cioè per questa necessità di completamento, può darsi che qualche dato sia sfuggito, ma vi voglio segnalare proprio dal Sole 24 Ore di questa mattina, per il 7.30 del prossimo anno dovremo avere già più dati inseriti all'origine. Infatti ci riferiscono Francesca Milano e Giovanni Parente questa mattina che l'idea è quella di arrivare a poter già inserire da parte del fisco, quindi le troveremo già belle pronte in qualche modo, la nostra dichiarazione dovremo solo controllarle, spese come le rette universitarie, le spese sostenute in occasione di eventi funebri, quote versate per la pensione integrativa, ma anche le spese sostenute per ristrutturare casa, per l'arredamento e gli elettrodomestici, cioè quelle spese che ci danno diritto, come sapete, a una detrazione, a uno sconto fiscale. Sono le uscite che stanno in cima alla lista della potenziale estensione del meccanismo del 730 precompilato. Vedremo quale potrà essere poi la praticabilità di questo percorso. Intanto, naturalmente, si va avanti anche nella preparazione della legge di stabilità, altro passaggio molto importante per tutti noi per quanto riguarda i conti del 2016. Sul Sole 24 Ore di oggi Carmine Fottina annuncia che il bonus ricerca, cioè la quota di credito d'imposta che si pensa di assegnare alle imprese per l'attività di ricerca e sviluppo, si rafforza con, pare, una dote appunto di 200 milioni in più, con un tetto annuo per beneficiari che salirebbe dai 5 ai 10 milioni. Trovate il dettaglio di queste manovre sulla legge di stabilità, di queste trattative complicate sulla legge di stabilità, proprio sul Sole 24 Ore oggi a pagina 2. Infine vi rimando anche al Sole 24 Ore per quanto riguarda l'articolo 2, torniamo sulla riforma del Senato ancora per qualche istante, vi voglio segnalare una scheda che appunto accompagna un lavoro di Emilia Patta che spiega che cosa contiene questo importante articolo 2, importante perché appunto rappresenterebbe lo scoglio maggiore sul voto definitivo per il nuovo Senato, che voto che si attende a questo punto per il 13 ottobre. Ribadisco, l'ho già detto nella prima parte, si è trovato un compromesso per cui ci saranno delle disposizioni regionali che spiegheranno come i cittadini nel votare per i consigli regionali indicheranno anche i futuri senatori. So che la cosa non è magari molto immediata da capire, quindi per questo vi rimando sia a quelle schede che presentiamo oggi sul Sole 24 Ore, sia naturalmente ai contributi di spiegazione e di illustrazione che sono contenuti anche in diverse altre testate, quasi tutte naturalmente danno ampio spazio a questo voto sull'articolo 2. Ho ancora una trentina di secondi prima di fermarmi per le informazioni sulla viabilità. Carmelo Lauricella mi fa cenno, sì, è così, allora vi do una sorta di anticipazione perché non che ne avesse bisogno, ma c'è un'ennesima contestazione sulle spese del sindaco di Roma Ignazio Marino. Marino e quella cena sospetta pagata con la carta del comune riguarderebbe una cena del giorno di Santo Stefano, una cena con la famiglia che è stata però attribuita ai conti del comune. Così racconta Ernesto Menicucci nel Corriere della Sera, la vicenda è anche su altri giornali, ma lo scopriremo dopo il traffico. Gran Moravia con l'etichetta multimediale ti fa visitare la sua filiera ecosostenibile. Vi presenta in primo piano. E ancora una buona domenica da Mauro Meazza, bentornati alla nostra rassegna stampa, ultima parte in cui cerchiamo anche di segnalarvi qualche cosa che non è di maggiore evidenza quest'oggi, ma pure mi sembra importante farvi presente. Allora, abbiamo parlato, prima di fermarci per le informazioni sulla viabilità, di questa ulteriore contestazione al sindaco di Roma Ignazio Marino per l'utilizzo di una carta di credito del comune per una cena, parrebbe appunto di tipo privato, di tipo familiare. La vicenda sta sul Corriere della Sera e la racconta Ernesto Menicucci. Ma altre questioni scuotono in qualche modo la pazienza dei romani, ce lo riferisce il Messaggero, che ci segnala che per gli scioperi nei trasporti, venerdì è stata un'altra giornata nera per la metro di Roma, è in arrivo uno stop per i mini sindacati. E infatti nelle pagine interne si spiega come sui tavoli di governo e Parlamento ci sarebbe una proposta di legge che affida il potere di astensione soltanto alle principali organizzazioni. La proposta di riforma potrebbe riscuotere il consenso delle confederazioni, che sono da sempre contrarie al referendum. Si spiega, Umberto Mancini e Diodato Pirone spiegano nell'articolo che è aperto da questo titolo che vi ho letto, come l'idea è che nei trasporti gli scioperi possano essere indetti solo dai sindacati che firmano i contratti di lavoro o accordi ad hoc che vengono definiti per eventi straordinari, come possono essere ad esempio l'Expo o il Giubileo. Si parla anche di una tregua di scioperi dei trasporti in occasione del Giubileo. Secondo, fra i sindacati che non firmano, lo sciopero potrà essere indetto, ma a patto che la singola organizzazione rappresenti gruppi minimamente consistenti di lavoratori. Presumibilmente, questa è l'ipotesi su cui si sta ragionando, almeno il 5 o il 10%. In caso di sciopero indetto da più di un'organizzazione sindacale, la soglia di rappresentatività dovrebbe essere molto più alta. Non ci sono cifre, ma presumibilmente molto oltre il 20% o 30%. Così anche il ministro poi dei trasporti Graziano Del Rio, nella pagina successiva sempre sul Messaggero: il governo stop al caos Roma, ecco la stretta sulle agitazioni, cresce l'allarme in vista del Giubileo, però il ministro esclude in queste anticipazioni che raccoglie Marco Conti il ricorso a un decreto. Il premier preoccupato vuole evitare nuovi danni all'immagine del paese. Resto ancora sul Messaggero per cambiare però completamente tema. È una notizia che viene anche segnalata in prima pagina del quotidiano romano: allarme vaccinazioni, calano le obbligatorie. Carla Massi che spiega come sono calate sotto il minimo storico anche le vaccinazioni obbligatorie, e l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci bacchetta. L'Istituto Superiore di Sanità annuncia sanzioni ai medici che sconsigliano la profilassi. Sulle vaccinazioni si sono create effettivamente una serie di paure, preoccupazioni, ansie, anche a volte dicerie da rete, dicerie da social network, che hanno finito evidentemente per avere un suo peso, perché, come leggo appunto dall'articolo di Carla Massi sul Messaggero, per la prima volta negli ultimi 10 anni la copertura vaccinale è scesa sotto la soglia del 95% della popolazione infantile. Questo 95% è il valore minimo indicato dal piano di prevenzione. Uno spostamento additato anche dall'Organizzazione della Sanità, che ci ha promosso come salute generale, ma bocciato poi per appunto la diminuzione del numero delle vaccinazioni e anche per l'aumento del tasso di obesità. Trovate tutto questo, appunto questo calo delle vaccinazioni, sul Messaggero di questa mattina. Cambiamo invece testata e anche argomento. Dal quotidiano nazionale Il Giorno, un'intervista al ministro Alfano, un'intervista di Antonella Coppari dedicata in grande parte alle questioni della legge elettorale del nuovo Senato, ma che trova anche un momento per parlare Della questione dei migranti, già i migranti che comunque rappresentano, continuano a rappresentare un'emergenza per tutta l'Europa. La redistribuzione degli immigrati, chiede Antonella Coppari al ministro, quando parte? Tutti hanno parlato di novembre, la risposta del responsabile dell'interno, ma io sto lavorando per accelerare, punto a far partire per i vari paesi europei i richiedenti asilo già la prossima settimana. Quindi, se comprendiamo bene, già da domani o comunque nei prossimi giorni dovrebbe cominciare questa redistribuzione dei migranti, dei richiedenti asilo nei vari paesi europei. Spero che in concomitanza con il Consiglio europeo dell'8 ottobre, sono sempre parole del ministro Angelino Alfano, ci siano le prime ricollocazioni o più propriamente il giorno dopo. Poi saranno attivati gli hotspot sono quei centri in qualche modo di accoglienza e preparazione alla destinazione in altri paesi. Non mi piace usare la parola redistribuzione quando si parla di esseri umani, ma questo è purtroppo il linguaggio che abbiamo a disposizione. Dice gli hotspot saranno attivati, sì, dopo questa operazione di redistribuzione, ma saranno pure attivati i rimpatri degli irregolari. Su questo, dice Alfano, sono stato molto chiaro in Europa, abbiamo già una serie di centri che possono svolgere questa funzione. Intervista al ministro dell'Interno Angelino Alfano sul Giorno. E poi, cambiando invece testata e argomento un'altra volta, dal Giornale di questa mattina, già in prima pagina e poi nelle pagine interne, il fisco strozza 400 medici con cartelle da 300.000 euro a testa. Si tratta, scrive Anna Maria Greco, di 400 medici che hanno vinto una causa collettiva per ottenere il risarcimento degli anni di specializzazione non retribuiti a suo tempo, e ai quali ora il fisco chiede 373.806 euro e 75 centesimi. A gennaio 2012, riassume così in prima pagina del Giornale, questi medici hanno festeggiato per la sentenza che ha riconosciuto le loro pretese. Circa un anno dopo ognuno ha ricevuto tra 40 e 50 mila euro, appunto, come riconoscimento del loro periodo di specializzazione, ma ora arriva la richiesta del fisco, dell'Agenzia delle Entrate, che chiede a tutti una somma enorme calcolata sull'entità totale del risarcimento da parte dello Stato per l'imposta di registro della sentenza. La stangata del fisco sui medici viene riferita, viene spiegata poi in pagina 4. Il Codacons ha già preparato una controffensiva, ha inviato una diffida a Rossella Orlandi, come sappiamo, che è al vertice dell'Agenzia delle Entrate. Questo meccanismo non sembrerebbe essere una cosiddetta cartella pazza, cioè un malo calcolo delle somme dovute dai medici, ma appunto arrivano queste cartelle da 300.000 euro a testa, ce lo riferisce il Giornale questa mattina. E poi, ultimissima cosa, negli ultimi 10 secondi, da Repubblica, il ministro Pinotti, del ministro della difesa, che annuncia 1.000 soldati in più contro la Camorra, c'è un piano per Napoli, contingenti già impiegati in missioni estere verranno utilizzati per fermare l'escalation violenta delle baby gang. E con questo per me è davvero tutto, vi lascio agli aggiornamenti del Giornale Radio e agli altri programmi della domenica di Radio 24. Buona domenica a tutti.